Letture di Radio 24. Il 3 febbraio del 1998 un aereo militare americano comandato dal capitano Richard Ashby trancia il cavo che sostiene la funivia del Cermis in Trentino, facendo precipitare una cabina e provocando la morte di 20 persone. L'anno successivo sia il capitano che il navigatore Schweitzer vengono condannati per omicidio colposo, ma Ashby verrà rilasciato dopo 4 mesi e mezzo per buona condotta. Oggi emerge un rapporto dei Marines datato 1998 nel quale il comandante Peter Pace riconosce che l'aereo ha volato molto più basso di quanto non fosse autorizzato, chiede che vengano presi tutti i provvedimenti necessari nei confronti dell'equipaggio e stabilisce che gli Stati Uniti paghino tutte le richieste di risarcimento. Un solo uomo sopravvive a quella tragedia. Nei suoi ricordi c'è ancora l'incubo del rumore del cavo che si spezza. La croce di acciaio in cima al prato dove è caduta la funivia, dal sentiero si fatica a vederla. La stele di legno con l'inchiostro rosso sangue è ancora più piccola. Se uccidi un uomo è un omicidio, se ne uccidi 20 è un errore. L'apostrofo al posto sbagliato forse è la firma di uno straniero, un parente di Sonia che aveva 25 anni e veniva da Vienna per sciare, di Rosemary, che aveva un anno in meno e dal Belgio era partita per salire sul Cermis dove non sarebbe mai arrivata. 20 morti e 20 famiglie cristallizzate in un ricordo insopportabile. 20 morti e un unico sopravvissuto. Sono scampato all'inferno, ma dopo non è stato il paradiso. Marino Costa lavorava come manovratore sull'altra funivia, quella che scendeva dai 1298 metri del Cermis, risparmiata dal caccia del capitano Richard Ashby, che con un colpo di coda e la follia di un gioco tranciò una fune di acciaio e 20 vite. Il rumore del cavo che si spezza me lo sogno tutte le notti. L'aereo no, neanche allora riuscì a sentirlo. 45 minuti rimase a dondolare sulla funivia prima che i vigili del fuoco lo riportassero a terra, in quell'inferno da cui era scampato per un miracolo o per il fato. Molto peggio è stato il dondolio degli anni venuti dopo. I Marines che scappano ben protetti negli Stati Uniti, il processo finito in un quasi niente, con qualche mese di carcere ridotto pure per buona condotta, e i risarcimenti che risarciscono le ferite, ma non la memoria. Anni di processi, di bugie, di mezze verità sepolte nelle carte, che adesso ritornano finalmente a galla. Il sindaco di allora, Mauro Gilmozzi, ne è convinto. Gli americani dall'inizio hanno protetto i loro apparati militari, come se il risarcimento bastasse a cancellare quello che è successo. Elena, la vedova di Marcello Vanzo, il manovratore dell'altra cabina, vive ancora nella casetta bianca a 100 metri dalla nuova stazione intermedia della funivia. Non ho mai parlato, continuerò a non farlo. La storia la sanno tutti, il dolore è solo mio, dice gentile ma inflessibile. In 13 anni non è cambiato niente per lei e niente potrà più cambiare. Solo la funivia non è più la stessa. Una volta la cabina volava su per la valle fino in cima all'Alpe del Cermis. Adesso la accarezza rasoterra sfiorando le cime degli alberi. Nelle tre stazioni non c'è neanche una lapide. Lo ha deciso la gente di qui per tenere lontani i turisti dell'orrore. Elena, che lavora alla prima stazione di Cavalese, anche quel giorno era in ufficio. Ogni santo giorno che entro qui guardo verso la montagna e ricordo. Fa ancora male. Ma fa più male per tutto quello che è successo dopo, per i processi incredibili, per quella giustizia che non c'è mai stata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fabio Poletti, Sogno ancora il rumore del cavo che si spezza, dalla stampa del 13 luglio. L'Italia è il paese dove da una parte si continua a chiedere l'innalzamento dell'età pensionabile, dall'altra c'è chi va in pensione dopo un solo giorno in Parlamento. C'è chi percepisce una pensione da 78 centesimi e c'è chi ogni mese riceve 90.000 euro dall'INPS. Ma anche il paese degli imbroglioni e dei falsi invalidi, a volte tutti concentrati miracolosamente nella stessa famiglia. Di fronte a tanti falsi ciechi, beh, non resta che aprire gli occhi. E in effetti l'italico campionario abbonda di situazioni che potrebbero perfino strappare un sorriso, se non nascondessero un vizio tragico. A Palermo una sorda viene assunta come centralinista. A Roma un paraplegico fa il maratoneta. Ad Avellino un paralizzato ara i campi. A Bari uno senza mani guida il camion. A Monteforte Irpino è stata scoperta una donna di 62 anni che, stando ai documenti di invalidità, non avrebbe potuto nemmeno alzarsi dal letto. Ogni mattina, invece, andava a zappare i pomodori nell'orto, poi tornava a casa, si metteva la tuta e cominciava a fare jogging. Peccato che la marcia lunga per lei sia finita in caserma, con tanto di doccia fredda. Nel maggio 2009 a Genova è stato fermato un ladro acrobata. Si arrampicava sui cornicioni, volava sui tetti, saltellava fra le ringhiere dei balconi. Hanno scoperto che era invalido al 75%. Avete ragione, ma la pensione non mi basta. Ha provato a scusarsi lui. Gli hanno dato 6 anni. Ad Arzano, in provincia di Napoli, nel 2005 è stata beccata una famiglia, 20 persone, tutte con la pensione di invalidità INPS. Il marito, la moglie, i 3 figli, le 2 nuore, il genero, 2 zie, la nonna, i consuoceri, 4 cugini e altre 2 cognate. Nessuno di loro, ovviamente, risultava in possesso dei requisiti. Il capofamiglia, presunto cieco, guidava l'automobile. Uno dei suoi familiari, presunto paralitico, è stato fotografato mentre camminava trasportando sulle spalle enormi pacchi. La procura ha stimato il valore del raggiro, 3.770.000 euro, solo per una famiglia. Possibile, ma sicuro. I magnifici 20, infatti, oltre che il mensile, si erano fatti pagare anche tutti gli arretrati. E se la famiglia non vi basta, ecco il quartiere dell'inganno. A Napoli, infatti, nel gennaio 2010, è stato scoperto un intero rione popolato di falsi pazzi. Siamo al pallonetto di Santa Lucia, nella zona di via Chiatamone, subito alle spalle dei grandi alberghi della città. Qui, su poche migliaia di abitanti, sono stati individuati ben 400 malati di mente, con assegno di invalidità al seguito. Stando ai dati ufficiali, dunque, quelle strade dovrebbero pullulare di psicopatici, con una concentrazione impressionante di schizofrenici, paranoici e nevrotici, roba che al confronto il manicomio è un'oasi di razionalità. Ma vi pare? In realtà basta scavare un po' per scoprire che nello stesso quartiere, poco tempo prima, era stato individuato un giro di malaffare fondato sui falsi ciechi, 53 persone arrestate. Che i dispensatori di pensioni truffa abbiano solo pensato di cambiare specialità? Ma se è così, perché concentrarsi proprio sulla follia? Che sia un segno dei tempi? Nel febbraio 2011, nel quartiere Chiaia, viene fuori invece il filone dei tumori inventati. Per intascare la pensione di invalidità, si fingevano malattie incurabili e, con l'aiuto di medici compiacenti, si trasformavano semplici nei in cancri maligni, come se la truffa all'INPS non fosse già di per sé un cancro abbastanza maligno. In effetti, sono almeno 3 decenni che lottiamo contro i falsi invalidi, senza grandi risultati, si direbbe. E pensare che verso la metà degli anni Ottanta, con l'ottimismo proprio dell'era craxiana, l'allora ministro competente Gianni Balla Balla De Michelis si diceva sicuro della vittoria finale. All'epoca diventò quasi mitico il paesino di Militello Rosmarino, fra Messina e Palermo, dominato dalla dinastia Lorè, in particolare dal celebre Vincenzo, detto Lorè delle Pustole, che era riuscito a far avere, in quel centro di 1200 anime, oltre 500 pensioni di invalidità. Tutti sciancati a Militello, tutti monchi, accecati, tisici o poliomelitici, compresi un certo Biagio, invalido al 70% per reumatismo articolare e ipoacusia bilaterale di tipo trasmissivo, e un certo Giuseppe, invalido pure lui al 70% per ipoacusia trasmissiva bilaterale, oltre che cieco, riduzione del visus e storpio, artrosi lombosacrale. Giuseppe e Biagio, però, nonostante questo carico di sciagure personali, ogni domenica sfidavano eroicamente il dolore per scendere in campo con la locale squadra di calcio. Che cosa non si fa per il pallone, eh? Fra l'altro, molti degli invalidi di Militello Rosmarino figuravano come domiciliati proprio a casa del re delle pustole. Arrivavano da tutti i paesi del circondario e prendevano residenza lì. «Che cosa ci vuol fare, signor giudice?» disse Vincenzo quando fu portato in tribunale per spiegare l'anomala circostanza. «Lo sanno tutti che odio stare da solo». «Perché a Napoli c'è una pensione di invalidità ogni 41 cittadini, mentre a Lodi ce n'è una ogni 115 e a Varese una ogni 117? Sempre colpa della fata nera? O la sfiga in realtà ci vede benissimo? Perché in Campania viene erogato un assegno di accompagnamento ogni 28 abitanti e in Lombardia invece uno ogni 40. perché i titolari di pensione di invalidità sono l'8,4% degli abitanti di Nuoro e solo il 2,5% di quelli di Milano? Perché i due terzi dei sussidi vengono erogati al sud e invece nel Trentino, in tutto il 2009, è stata concessa una sola, leggasi una, pensione di invalidità? A Taranto, dove c'è un invalido ogni due famiglie, la commissione di verifica dell'INPS ha rilevato cartelle mediche di sedicenti malati di mente che conducono aziende da soli. A Enna, medici incaricati di rivedere le invalidità concesse hanno scoperto malattie accertate nel 1980 e mai più verificate. E a Carlentini, nel Siracusano, è finito nei guai Francesco Zappalà, presidente della sezione dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Stando alle accuse, si appoggiava a un medico compiacente che rilasciava certificati a pacchi in cambio di voti alle elezioni. Una signora ci è rimasta male. «Pure mio marito è candidato», ha protestato. Si è lamentata al telefono, è stata intercettata e ha raccontato tutto ai magistrati che hanno aperto un'inchiesta per voto di scambio. Invalidità contro preferenze elettorali. «Le pensioni fasulle sono una miniera», confessa un medico anonimo alla Repubblica. «Producono almeno un deputato l'anno. Troppi scandali, troppe ingiustizie». Così nel 2009 è stato deciso un severo piano di controlli. Sono partite verifiche a tappeto in tutta Italia. Nel 2009 sono state esaminate 200.000 pensioni di invalidità e ne sono state cancellate di botto 22.000, cioè l'11%. Nel 2010 ne sono state esaminate 100.000 e ne sono state cancellate di botto 23.000, cioè il 23%. Ciò significa che un'indennità su quattro a quella data veniva incassata indebitamente. Una su quattro non è poco, o no? Dopo 30 anni di lotta contro le false invalidità, dopo che la battaglia è stata dichiarata vinta decine di volte, in alcune regioni poi i dati sono anche più impressionanti. Sarebbe falsa una pensione su due, il 53%. In Sardegna e in Umbria il 47%, poco di meno in Campania, il 43%, e in Sicilia il 42%. A Napoli si tocca quota 55%, a Cagliari il 64%, a Benevento il 52%. Mentre a Milano, per dire, nel 2010 sono state effettuate 2.532 verifiche. Le pensioni di invalidità false erano solo 85, il 3%. Non è cambiato nulla, insomma. Anzi, le differenze fra le varie zone d'Italia sembrano aumentare con il passare del tempo, almeno da quando la competenza per l'accertamento dell'invalidità è passata alle regioni, lasciando però l'onere finanziario in capo all'INPS. Perfetto esempio di federalismo suicida che deresponsabilizza gli enti locali, permettendo alle amministrazioni meno virtuose di essere assai munifiche, sempre e solo, con i denari altrui, ovviamente. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Mario Giordano, Sanguisughe, le pensioni d'oro che ci prosciugano le tasche. Mondadori Editore, 174 pagine, 18,50 euro.